Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Moby Dick, un racconto di Massimo Vincenzi tratto dall'omonimo romanzo di Herman Melville con Edoardo Siravo, messa in scena a cura di Carlo Emilio Lerici. Acqua, acqua, soltanto acqua, acqua che non ci vedi, acqua sui vestiti, fiumi che corrono giù per il corpo, corpo inzuppato, sciolto, liquido, corpo gonfio d'acqua, acqua sui capelli che si appiccicano alla fronte, acqua a coprirti gli occhi, a schiaffeggiarti la schiena, a soffocarti la faccia come un panno di lana fradicia, la bocca aperta che provi a respirare, ma non ci riesci. Paura, niente aria, acqua e paura che non controlli più, che ti soffoca a braccio, da cui è impossibile scappare. I denti sembrano aver voglia di staccarsi, le labbra bianche crepate dalle ferite, le mani trasparenti che non le riconosci, non esistono più. Freddo e dolore, l'urlo che ti ritorna in gola, il sale a graffiarti i polmoni, a comprimere l'aria. Non c'è posto per aria e acqua, c'è solo acqua. Non ci sono dighe, non ci sono colline su cui rifugiarsi. Anche il cielo se n'è andato, spazzato via. C'è solo il mare, sopra e sotto. Mare d'inferno, fiamme d'acqua a rapire me e i miei uomini, a riportarmi indietro, da dove sono venuto. La testa è un lago che rimbomba di pensieri fradici, niente da fare. Corpo in croce, sacrificio primitivo. Il coraggio va a fondo, imbevuto di sale cattivo, la logica e la ragione in frantumi alla prima onda. Non è lavoro per loro ripescare i naufraghi della mente. Puoi stare lì ore a pensare, puoi provare a capire il senso, puoi cercare di rimettere un po' d'ordine, di ricordare, magari, come è iniziato tutto questo? Niente. Tutto fa troppo male. Ogni volta una frustata d'acqua ti ributta a picco. Comanda il caos. Una nebbia che avvolge la memoria, un macigno che sfonda il buonsenso. Ti rimane solo l'intuito. La forza animale che ti spinge ad aggrapparsi a qualsiasi vita, anche a quest'ultimo spicchio di respiro malandato, come fa lo schiavo in catene, come fa la balena ferita da mille arpioni, come faccio io? Bisogna lottare per salire sulla schiena del proprio destino. Bisogna alzare la testa. Legato come sei, mille corde sono lì a tirarti da una parte e dall'altra. Legato a questo animale innaturale, ostaggio del tuo signore padrone. Lotti? Devi lottare! Devo lottare! Non morirò così. Ma non è la morte che mi spaventa. È non capirla. Alzo la testa. Ancora una volta sforzo i muscoli della schiena. Mi si spezzano dentro il frastuono di questi tuoni di mare. Sento le crepe dei miei muscoli allargarsi. Legni di una barca che slabrano il catrame, che si sfasciano. Apro appena gli occhi che bruciano. Due fessure ad intravedere qualcosa dentro questo muro d'acqua bianca. Le urla dei miei uomini sono ormai solo un ricordo. Non possono essere loro ad emettere queste grida da bestie in fuga durante una notte di fuoco. Non può essere un uomo a morire così. I pensieri. Mi aggrappo ai pensieri. I pensieri mi aiutano. Sono Achab, mi dico. Il capitano Achab. Ripeto ad alta voce il mio nome. Se l'acqua non si mangiasse le parole, griderei il mio nome. Sono Achab, per Dio, comandante del Pequod. Sembro un bambolotto di pezza buttato via alla fine dei giochi. No, non vedete quello che guardate? Un punto nero legato sopra una montagna bianca. Follia, mente sotto sopra. Ma finché penso non muoio. Dirlo adesso che sto all'agonia di questo animale maledetto con l'acqua di mille offese a sferzarmi il corpo. Mi fa quasi sorridere. Anzi, rido della saggezza da morto a mollo. Della mia saggezza di morto a mollo. Guardarsi in faccia, la fatica più grande. Specchiarsi nell'abisso senza sussultare quando dal baratro spunta fuori il tuo riflesso distorto. Il tuo vero volto. Questo avrei dovuto fare tutti i giorni, ogni attimo della mia vita. Questo ho fatto da sempre senza saperlo. E questo farò fino a quando questo Dio, che non riconosco, vorrà tenermi imprigionato in questa gabbia. Non dormo. Io muoio ogni volta che mi butto nel letto. Le lenzuola a legarmi come catene. Non resisto. Devo alzarmi. Come se la fatica che faccio ad alzarmi con il mio corpo mezzo mangiato, coperto di cicatrici, fosse la moneta da pagare per avere un po' di sollievo. Io non dormo. Lo sapete bene voi che siete miei compagni e sentite ogni notte il rumore del mio passo sbagliato battere il legno. La mia gamba d'osso di balena che picchia sul vostro sonno. Incubo senza fine, ritmo regolare di tristezza e smarrimento, metronomo dell'ansia che ci accompagna. Picchio la gamba sul ponte come un tamburo da parata. rintocchi da funerale. Giù. Attorno non c'è nulla. Le notti tutte in fila, una uguale all'altra. C'è da impazzire a stare qui, immobili, con gli occhi spalancati e le narici dilatate. Sentite? Sentite? Sentite l'aria! Si sposta anche se non c'è vento! Guardate quegli uccelli che non si spostano mai dai loro scogli e che ora sono sopra di noi! Anche se di scogli non ce n'è nemmeno l'ombra! Gabbiani neri! Gabbiani che non avete mai incontrato! Usate! Sporcate le narici di questo petrolio! Aprite gli occhi! Che anche se è notte poco importa! Il buio non esiste! Luce sopra di voi! Luce a squarciare le onde! Lei è qui! Moby Dick è qui! L'odore è Moby Dick! L'ombra è Moby Dick! Moby Dick è sotto di noi, andiamo, andiamo a prenderla! Le l'avevo detto che lei ci aspettava qui. Io non l'ho mai dubitato, anche quando non c'era più vento, anche quando il sole cuoceva le nostre carni, seccava le gole e i pensieri. Io non ho mai dubitato, anche quando tutta la natura sembra dirci di andarcene da un'altra parte. Io vi ho promesso che l'avremmo trovata, e che l'avremmo trovata proprio qui, all'incrocio di queste onde sbilenche. Lei è qui, ora! Aprite gli occhi, salite sull'albero più alto, salite in cielo, aggrappatevi alle stelle. C'è una moneta d'oro per chi la vede prima degli altri. C'è una vita da riprendersi, un mondo da rimettere insieme pezzo dopo pezzo. Ma non cacciatela per loro, cacciatela per voi stessi. Vi farò fare la cosa giusta finalmente. Fatelo per le vostre mogli e per i vostri figli. Venite, venite qui adesso. Un attimo prima della nostra caccia voglio parlarvi. Ascoltatemi. In mezzo a quella distesa d'acqua e niente, voi non vedrete un pesce. Voi dovete scovare una montagna di neve, uno spruzzo luccicante alto come un enorme fascio di grano. Inseguite una nuvola di vapore. Una coda che percuote l'acqua come una vela sbrindellata dalla tempesta. Cercatela oltre le fiamme della perdizione. Siamo qui per questo. Bambini alla festa più bella. Bambini felici finalmente. È un battesimo quest'alba. Passo a voi la stessa scossa che ho sentito io quando la mia gamba è stata tranciata, scaraventata negli abissi. Non mollate la presa, anche se vi si arrossano le mani, anche se scotta come il sole a picco di mezzogiorno sul ferro. Tenete ferme le mani, fremate, assaporate i brividi di dolore, urlate di piacere. Bevete contro i manici scavati dalle armi. Giurate che non ci fermeremo mai. Giurate che saliremo sulle spalle dei giganti. giù, soffia. Avete visto? Lo sapevo! Lo sapevo! Io non mi sbaglio! Ecco il riflesso del suo nuotare. Guardate quella piccola ombra chiara che sale piano dalle profondità. Ora la vedremo. Finalmente pane per i nostri occhi affamati. Ecco il banchetto che vi avevo promesso, miei affamati. Ecco cosa ci aspetta. Guardate adesso quel riflesso bianco che percuote le onde illuminandole. La luna che a metà del suo giro ha deciso di farsi un bagno. Non può essere altro che quello. Le stelle la lasciano passare, la seguono dall'alto e noi cattureremo questa luna a nuotatrice, spicchio dopo spicchio. Infilzeremo i suoi crateri con i nostri arpioni. Dritti sotto vento, che lei è premurosa e intelligente. Troppo intelligente. Lei finge di non averci sentito. O forse dorme senza dormire. La conosco. So cosa prova. Forse è distratta da mille pensieri, forse sta sognando la sua eterna vendetta. L'ebbrezza del risentimento è ciò che ci tiene svegli, è ciò che ci tiene in vita. Siamo morti fino a quando non capiremo il bene della vendetta. Lei vive di rabbia e dolore. Lo so cosa prova, cosa si prova. E allora su, spiegate le vele al vento, svelti, preparate le lance, spiegate le vele! Fate correre il Pequod, i soliti gesti, dannati uomini, i soliti gesti, li dovreste sapere a memoria, per Dio! Le scialuppe in mare, calate le scialuppe in mare, i ramponieri davanti, lei è là! Anche gli uccelli ora si nascondono, vogliono ingannarci. La natura sta dalla sua parte. Sono tutti con lei. Pensano di ingannarci, illusi. Noi sappiamo che è lei. E lei è là, sotto l'acqua nera. Lei si nasconde. Andiamo. Andiamo a prenderla. Andiamo a prenderci le nostre vite! Devo urlare. Non mi sentono più. I miei uomini sono ormai lontanissimi, eppure sono ancora lì, a pochi metri da me. Sulle lance ancora intatte e sul ponte di comando. Ah, siamo tutti prigionieri di questo vortice di acqua e schiuma. Andiamo verso l'alto infinito e poi scendiamo giù nel buco profondo, presi in ostaggio da queste montagne salate. Fatico a tenere gli occhi aperti, a far pulsare il cuore. Per respirare devo ordinare ai polmoni di muoversi. Per far fluire il sangue devo gridare alle vene di pomparlo lungo le vie della mia vita. Devo ordinarmi di aver pietà dei miei marinai. Anche i sentimenti e le emozioni si smarriscono nel vuoto. La mia natura è questa acqua. Ma se mi arrendo è finita. Vedo Starbuck. Mille battaglie con lui. Il mio amato Starbuck in piedi sulla lancia. ma poi non lo vedo più. Cristo, gli occhi mi bruciano! I miei uomini! Dove sono i miei uomini? Sento solo urla di bestie! Starbuck, parlami! Cercami! Tirami fuori da questo mare di fango! I miei ramponieri volano in aria come aquiloni! Ma non c'è festa! Non siamo bambini, marionette del mare! Siamo dei simboli, siamo solo simboli e maschere! Tutti gli oggetti visibili sono maschere. Esistono solo il bene e il mare. Il resto, tutto quello che vediamo e incontriamo lungo la nostra strada, sono le rappresentazioni del bene e del male. È la prima cosa che ho capito nella mia vita, anche se non mi è servita a niente. Chiudo gli occhi per un attimo. Se sapessi dove sono le mie mani, le passerei sulla faccia. Provo a respirare piano. Non sono matto! Non lo sono nemmeno ora che sto qui in questo labirinto di acqua e paura ad annaspare tra le onde della memoria. Ha tutto un senso, una logica. Il mare sembra pazzo, scosso dai tremori della follia. Invece è tutto scritto, tutto logico. Come da bambino, seduto sulle reti del magazzino di mio padre, osservando gli uomini anziani che aggiustano i ramponi, che curano le lance. Una mano di catrame a tenere stretto il legno e una risata che le risate spingono lontano i cattivi pensieri. Nasco ora. I pianti, le poppate, gli strilli della fame. Quelle cose lì non sei tu. Sono gli altri che giocano con te. Io dico che si nasce dopo una manciata di anni. Nasco quando ho 10 anni e ho il primo ricordo di aver fatto qualcosa. Nasco quando inizio ad andarmene in giro da solo. Ma in realtà non è che io me ne vado tanto in giro. Gli spazi aperti mi mettono dentro una sensazione che non si sa spiegare. Mi sussulta lo stomaco quando controlungo una parete. Io corro in un prato di fiori ed erba medica. Mi si stringe la gola quando metto piede sulla spiaggia. Guardare il mare poi mi fa quasi salire le lacrime agli occhi. Mi sforzo di non piangere. Sono grande adesso. Sono un ometto. Me lo ripete sempre mio padre, mi dice: presto verrai in barca con me, basta stare tra le gonne di tua madre. Io faccio sì con la testa, ma dentro mi dico che appiccicato ai vestiti di mia mamma sto meglio che in qualsiasi altro posto del mondo. Certe gonne le conosco a memoria. Gli occhi aperti solo un pochino, quel che basta per vedere i fiori stampati sul tessuto, i ricami dei merletti, le piccole cose che mi coccolano i pensieri, che mi fanno dormire con il sorriso sulle labbra. Ma non voglio che mio padre si arrabbi e allora me ne vado fuori. Vado in esplorazione, come deve fare un ometto. Non vado molto lontano. Mi infilo nel magazzino delle reti e sto rannicchiato tra i gomitoli di corda ammassati a terra, la faccia appoggiata di striscio contro la canapa dura, gli occhi aperti solo quel basta per intravedere quel che si muove in giro. Vedere senza essere visto. Le voci dei marinai a scandire le ore, a tenermi sveglio. Non mi piace giocare con gli altri bambini. Troppo rumore, troppa agitazione. Li vedo, gli altri bambini che giocano, urlano, si rincorrono. Ci ho anche provato a stare con loro, a fare come loro. Ci provo ogni tanto. Per non deludere mio padre ci provo a giocare con gli altri bambini. A me questa cosa di prendersi a spintoni, andare così in giro senza motivo, non è che mi diverta molto. Anzi, mi mette strano. Sento dentro qualcosa che non so spiegare. Ma non lo dico a nessuno. Il mio rampone! Datemi il mio rampone! Nessuno mi può fermare oggi! Scendo anch'io in acqua! Oggi è l'oggi che vado cercando da tanti di quei ieri che non lo ricordo nemmeno più! Non è più tempo di scappare! Guardate là! Sono tornati gli uccelli! L'inganno non gli è riuscito! Tra poco anche lei! Dovrà riemergere! Tra poco si farà vedere! Presto! Sulle lance! Tienimi stretto, Starbuck, mentre salgo su questo dannato pezzo di legno! Le onde mi prendono in giro! Ai remi, in silenzio! Non fate rumore! Tirateli via dall'acqua! Puntateli al cielo! Ieri, state pronti, fissate con un occhio gli uccelli nell'aria e con l'altro le vene del mare. Quando lei sale, l'acqua si gonfia, cambia colore. Eccola, di fronte a noi, guardate il dorso bianco, guardate i ramponi che le sono rimasti appesi, che disegni buffi. Sembrano tanti cavatappi avvitati sulla bottiglia immaginata da un clown. Ci sarebbe da riderne se non fossero lì a dirci quanto siamo deboli, quanto Moby Dick è forte. Hanno ormai mille forme, spirali di ferro, ghirlande di fiori, festoni colorati, guardate! Ci sono anche i miei ramponi lì attaccati. Sta tornando sotto. Attenti, pronti con i remi. Svelti. Fate ruotare la scialuppa. Lei è lì. Sta venendo verso di noi. Lo so. Lo so. Chiudo gli occhi. E la vedo. Mentre gli altri bambini vanno in giro, io me ne sto lì fermo, immobile a guardare il mondo, con stupore infinito. Quando me ne sto lì, lì nel magazzino ad aspettare mio padre, il più piccolo nodo della più piccola lenza mi porta via un pomeriggio di concentrazione. Io per un pomeriggio intero penso a quel nodo. Com'è fatto? Chi l'ha fatto? Com'è arrivato dentro quel magazzino? Le mille forme che prende a seconda del caldo, del freddo, della bravura di chi l'ha intrecciato o dello spessore della corda, che cambia ogni volta a sua volta. Tutti i dettagli sono necessari per capire il mistero di quel nodo. È come una preghiera. Moby Dick ci viene incontro! Ci sfida! Pazza lei! Bellissima pazza! Voglio lanciare il rampone! Devo lanciare il rampone! Alzo il braccio, ma non faccio nemmeno in tempo a pensarlo! Una montagna di carne e ossa! Grande più della chiesa del mio paese, più alta del più alto dei campanili, più veloce del batter d'ali, del più veloce dei miei pensieri. Ah, testa da vecchio ormai. Perdo tempo a nodare i fili del mio ragionamento e quella ci butta tutti in mare. La lancia è niente, è foglia leggera malmenata dal vento cattivo d'inverno. Questa lancia a cui noi ci affidiamo come ad una seconda mamma non serve più a niente! Vola in aria! Barchetta di carta, divertimento da bambini! Siamo in gioco! Il divertimento di questo grosso bambinone con la coda! Ma gli anni non li puoi mica fermare dentro un magazzino delle reti. Così me ne vado in spiaggia, da solo, quando non mi vede nessuno e provo persino a mettere i piedi nell'acqua. Mi fa paura tutto quel vuoto immenso. Mi spaventa questa cosa che cambia di continuo. Tu ti concentri su un'onda e quella non c'è più un secondo dopo. È la stessa, ma è diversa. È un'altra cosa. Come i pesci che hanno mille riflessi diversi. Che senso ha star lì a pescarli se poi non sai mai quello che hai preso? Ma io sono un ometto e non ho più la gonna della mamma dove buttare la faccia. La mamma è morta. Ho pianto un po', ma di nascosto. I marinai non piangono, dico a mio padre, che fa sì con la testa. Nemmeno lui ha pianto. Guardo il mare con le palpebre strette per non far scappar via le lacrime. Grazie Starbuck! Grazie fidato amico! Grazie di avermi tirato sul ponte! È solo il primo giorno questo! Sarà una lunga caccia, non preoccupatevi. Ma vi dico lì, non c'è pericolo che ci scappi. L'ho guardata negli occhi prima, sopra il brivido delle onde. E i suoi occhi dicono che anche lei è stanca di scappare. Questo è il posto giusto, sì. Il momento giusto per incontrarsi. Mettetevi al lavoro. Anche voi, marinai, su al lavoro! Che cosa guardate con quelle facce spaventate da ragazzine al primo temporale? Che dite? Un presagio? Quei due legni sono un presagio? Voglio un vocabolario. Oh, Cristo! Se invece di tutte queste bibbie ci fosse un vocabolario, vi avrei già sgombrato la testa dai vostri spasmi di dolore e di terrore. Se gli dèi pensano di parlare apertamente all'uomo, apertamente gli parlano! Gli dèi urlano in faccia la loro rabbia, picchiano la loro vendetta. Gli dèi non mandano presagi, mandano a mangiarvi pezzo a pezzo. Fidatevi, io lo so meglio di tutti voi. Presagi funesti? Che idiozia! Quelli sono solo pezzi di legno. Io vivo in un mondo dove non ci sono né dei che mandano buffi segnali, né uomini che si mettono le mani alla bocca a coprire i singhiozzi della più stupida delle paure. La paura degli dei. C'è un prete che mi viene a trovare quando sono solo in casa dopo la scuola. Mi racconta delle storie. Mi parla per ore. E a me piace starlo a sentire. Dice cose sul male e sul bene. Parla di un signore buono e cattivo, di un signore anziano che ci ha messi tutti al mondo, una specie di grande papà. Parla di Dio. Prende larga, perché sa che mio padre non è tanto d'accordo con questa cosa della religione, o almeno non lo è da quando la mamma non c'è più. Ma mio padre non c'è mai a casa. Sta in mare o alla taverna. E così il prete può star qui a parlarmi. Anche la preghiera mi piace. Perché stare lì a concentrarsi sulle parole? Ogni parola ha un senso. Oltre al prete, mi piacciono anche le ragazze, loro un po' più del prete, a dire il vero. La loro bellezza mi incanta, mi cattura. Questa cosa dei grandi, l'amore, mi sembra una cosa bella, da imparare subito. Ce n'è una di ragazza che mi piace molto. Sta vicino a casa mia. Così tutte le mattine facciamo la strada insieme verso la scuola e poi anche per tornare indietro. Secondo me le piaccio anch'io. Lo dice una sua amica. Eccola! Eccola! Per fortuna c'è Moby Dick a distrarci le menti! Per fortuna abbiamo lei! Guardatela! Soffia laggiù! Su! Tirate su tutte le vele! Prendiamo tutto questo vento! Non sprechiamone nemmeno un soffio! Mangiamo il vento! Afferriamo le nuvole! Battiamo le onde! Solo noi abbiamo un lavoro fatale da finire! Gli altri sono solo piccoli uomini senza un destino da inseguire. Noi siamo mangiatori di vento, affamati di acqua e sale, assetati di sangue. Gli altri cacciano balene per portarsi a casa un po' di grasso, qualche brandello di carne e l'olio per le loro lampade. A noi la banalità deve far più paura del più violento dei temporali. Noi, io e tutti voi, miei cari, abbiamo solo lei da cacciare. E per prendere lei abbiamo bisogno di tutto il vento del mondo. Veloci! Veloci! lance e ramponi pronti! Veloci! Veloci! La velocità passa per la mia gamba! È un tutt'uno che sale a formicolarmi il cuore! Qualcuno mi prenda e mi butti in mare con la schiena fardachiglia, la spina dorsale come timone! Ma dove diavolo si è cacciata? Che è un po' che non soffia quella pazza! Eccola! Ma sei carissima! Salta per l'ultima volta! Hai ragione! Ti meriti anche tu un po' di divertimento! Hai visto che qui c'è il rampone che ti ha lasciato il destino! Sai che tocca a te adesso avere paura! E allora giochi! Torni bambina, quando negli occhi non avevi tutte queste battaglie, tutti questi uomini morti che ora ti offuscano lo sguardo. Salti felice, ti lascio saltare. Ti capisco. Tu? Premiamo? Eccola, eccola, le siamo attorno. Tre lance su di lei. Partono i ramponi. Si srotolano le lenze e i riflessi dell'acciaio, si specchiano nel sole, scintilla tutto qui. Non c'è più il mare, ma una lamina d'oro e d'acciaio su cui scivolano le nostre lance. Non salta più ora. Ah, non giochi più. Gira come una trottola, non scappa, no? Perché non scappi? Hai ragione, non bisogna scappare, te lo prometto. Questo è il secondo giorno di caccia. Ma se anche fosse il centesimo, non smetterò! Brava! Ricordami che questo è il momento! Ecco perché non scendi nel nero del tuo mare! Oh Cristo, non puoi continuare a girare così! Lenze! Fili! Corde! Ci stiamo legando con il nostro coraggio! Tagliate i ramponi! Tagliate! Starbuck, tagliate presto! Cristo, i miei uomini finiscono in mare. Le lance sono mamme distratte. Perdono i loro figli. Il tonfo! La testa sotto sopra. Solo acqua bianca adesso. Schiuma! Non vedo più niente. Paura annodata e rabbia. Sbatto le mani l'acqua, urla attorno, poi silenzio, il buio dentro la testa, il battito attutito di un remo a pelo d'acqua, il ritmo del mio cuore. Chiudo gli occhi, non penso più. Questa cosa di pensare alla ragazza non funziona poi molto bene e lei non capisce. Succede una mattina questa cosa, che stiamo lì sul muretto vicino a casa sua. Lei parla, la schiena appoggiata alla pietra, le mani strette sul petto a tenere i libri, la gonna azzurra con i ricami bianchi, mossa dal vento, i capelli ricci, rossi, addomesticati. Le nuvole sono bianche, quelle più grandi sembrano una cavalla che pascola con a fianco il suo puledro. Quando il vento si riaccende, il puledro sembra muovere la coda. Io e la ragazza stiamo lì, vicinissimi. Lei mi parla e parla e parla. Io sorrido, poi smetto di sorridere, ma senza accorgermene. La guardo come guardavo le pieghe sulla gonna di mia madre, i nodi delle lenze al magazzino, i granelli di sabbia sulla spiaggia, la guardo per capire la sua bellezza. Lei però non la pensa così. Si ferma, non parla più, mi dice di smetterla, che il mio sguardo la spaventa. Prova a sorridere, ma gli occhi non si staccano da lei, che adesso urla, strilla, mi percuote la guancia con la mano, poi mi gira le spalle e se ne va via di corsa. Non la rivedo più. Sulla pietra del muretto vicino a casa rimane il riflesso del sole che gioca con l'azzurro del cielo. Una luce mi buca il viso, caldo soffocante, freddo da brividi. Riapro una fessura, il legno della nave. Non c'è più il bianco della schiuma delle onde attorno a me. Starbuck, mio fidato aiutante, sei tu? Nessuno, non guardarmi così. Non ti preoccupare, sono ancora il tuo capitano. Non sono pazzo! Ma che mi disperi perché il legno che ha dentro il mio sangue si è smarrito tra le onde. Quello è il posto della mia gamba. È una gamba di mare. È pesce. Era un pesce la mia gamba quando era di carne e ossa. Resta un pesce ora che il sangue scorre dentro il legno. Sei stupito? Pensavi davvero che io odiassi Moby Dick per avermi mangiato un pezzo del mio corpo? Su, Starbuck, almeno tu che sei con me da sempre, non perderti nella semplicità della mente umana. Non c'è balena, né uomo, né diavolo che mi possa fare anche solo un piccolo graffio nel mio io più inaccessibile e nascosto. Ma ora basta! Dobbiamo muoverci. Cosa c'è, Starbuck? Amico mio, chiama gli uomini. Io sono Akab, sono il capitano del destino. Agisco perché ho ordini da rispettare. Tu vada a rispettare i miei. Venite qua, marinai. Davanti a voi vedete un vecchio tagliato fino al tronco, appoggiato su una lancia spezzata, puntellato su un piede solo. Sono io. Sono quello che vedete di me, il mio corpo. La mia anima è un mille piedi che avanza su mille gambe. E fidatevi di me. Oggi è il nostro giorno. Lo sapete. Prima di annegare, chi annega riaffiora due volte alla superficie. Poi riaffiora di nuovo prima di andare per sempre a fondo. Così Moby Dick, che gioca con noi da due giorni, è venuta a galla due volte. Ora metterà il suo muso in superficie per una terza e sarà l'ultima. Il fondo del mare l'aspetta. Su, ragazzi, prendete un po' di coraggio, siate fuoco, che c'è tutta una vita per spegnersi. La dico al prete, questa cosa della ragazza. Gli dico di getto, senza nemmeno pensarci, che voglio farmi anch'io prete. Oh, ma mica per la delusione, no? Perché da quello che mi ha raccontato lui, mi pare che solo Dio possa sopportare il mio sguardo. Lui sorride. Provo a spiegargli che cosa sento. Gli racconto che sì, da un bambino ho come una strana cosa che mi prende lo stomaco quando sono in mezzo al vuoto, davanti a un prato, davanti al mare, soprattutto davanti al mare. Mi fa male pensare di non conoscere quelle cose che mi stanno intorno. Ma conoscerle davvero, dico. E per conoscerle, per tranquillizzarmi, devo guardarle, guardarmele con grande intensità. La preghiera è una cosa così. Per questo mi piace, dico al prete. Ma lui sorride ancora. Mi dice che la mia è presunzione. Mi dice che la mia è solo la delusione di un ragazzino alla sua prima cotta. Insisto. Insisto, gli spiego che le donne non mi interessano, non sanno abbastanza della loro bellezza per capire. Non sanno che quando le guardo è per amore, per entrare dentro di loro. Sapere è l'unica cosa che conta. Inseguire con lo sguardo il mondo. Sono giovane, ma sono sicuro che solo Dio può essere guardato così a lungo. Gli dico, ma il prete non sorride più. Si fa serio. È arrabbiato. Lo capisco da come muove strette le labbra. Mi guarda serio e sussurra, nessuno vedrà il volto di Dio e vivrà. E lo ascolto in silenzio. Lui ripete la frase, nessuno vedrà il volto di Dio e vivrà. Ma io gli dico, io non sto cercando il volto di Dio, sto cercando di vederne l'anima. Il prete scuote la testa, si arrabbia, mi urla di non dire sciocchezze, che nessuno può parlare così di Dio, non capisce nemmeno lui. Non so cosa pensare, forse questo Dio non è poi così speciale come penso. Me ne sto in casa, aspetto che scenda la sera, guardo una nuvola attraverso la finestra. Se stacco gli occhi da quel cumulo bianco anche solo per un attimo, mi viene in mente la mia mamma. E la nuvola mi salva. Forse potrei seguirla, andare con lei ovunque vada. Ma non sono più un bambino. So che ora non voliamo. Starbuck, chiama il mastro carpentiere che mi rimetta a posto questa dannata gamba. Stringi pure le tue tenaglie attorno alle mie ossa. Non mi fai male. Sei Prometeo, quel vecchio greco che, così dicono, fece gli uomini con le sue mani da fabbro, animandoli con il fuoco. Ciò che nel fuoco è fatto, è giusto che al fuoco appartenga. E così l'inferno è probabile per me. E non fermarti alla gamba, Fabro! Voglio ordinare a Prometeo un uomo completo, un piacevole modello, per prima cosa alto 15 metri e anche di più. Poi un torace modellato a somiglianza di una montagna, poi le gambe come radici per star fermo in un posto. Finalmente! E le braccia! Le braccia con un metro di polso, niente cuore, no, no. Fronte di bronzo e una cascata di cervello fino, fino. Aspetta, Fabbro! Aspetta, non te ne andare! Devo ordinare anche gli occhi per vedere da lontano. O forse no, non mi servono gli occhi. Quest'uomo nuovo dovrà solo guardarsi dentro. Vai, Fabbro, che ci aspetta la caccia. Vai! Passa il tempo. Vado a scuola, studio anche se non capisco quello che dicono i maestri. Se vado a scuola posso guadagnare tempo, posso non andare per mare con mio padre, Posso scappare ancora un po'. Poi però la fuga finisce. È tardi ora. È quasi sera e... mio padre non torna. Mio padre non tornerà. Sto in piedi tutta notte a guardar fuori dalla finestra. Non guardo in fondo alla stradina dove lo dovrei vedere sbucare con il rampone sulla spalla. No, no, io guardo in alto e cerco la nuvola. Ma c'è un cielo senza stelle, senza luna. È la notte, la finestra è aperta. Sento il mare anche se da qui non lo si vede. Mio padre è là. Mio padre rimarrà là. Me lo viene a dire il prete quando fa giorno. La mattina dopo. Io non ricordo che cosa mi dice esattamente. Parla di una balena che ha travolto la lancia su cui c'era mio padre. Una grande balena, dice lui. Io di quel giorno ricordo solo la sfumatura del cielo e due uccelli che ci volano dentro. Il cielo ha un bel colore chiaro, quasi bianco, ma non il bianco delle giornate d'inverno, quello che confina con il grigio, no? Un bianco bello, di luce accesa, di sole che si impasta con l'azzurro, insomma. Lui parla, parla, parla. Io non sento, tanto so già cosa mi deve dire. Non c'è niente da ascoltare. Voglio solo guardare il cielo. Andrò in mare. Andrò a cercare mio padre. Ah, no, io mento. Mento. Come sempre. Da quel giorno in avanti. Vieni qui, Starbuck. È una giornata tranquilla oggi. È un cielo di un azzurro dolcissimo. In una giornata così ho ucciso la mia prima balena. I miei compagni pensavano fossi matto. Me ne stavo spesso da solo a fissare l'oceano. Mi svegliavo con le labbra chiuse in una fessura di attesa. Pensavano fossi un povero orfano con la testa sconquassata dal dolore. Ma non era così. No. Il dolore è stata una conquista per me, non una sofferenza. Quando per la prima volta mi presentai quasi correndo al molo, mi chiesero il perché di tanta fretta. Dissi loro che cercavo mio padre. In un certo senso era persino vero. Cercare era comunque quello che volevo fare. Cercare, andare, capire. Le parole mi sfuggono dalla bocca. Ne ho dette tante in questi anni che a volte mi si attorcigliano come le corde dei ramponi. Mi nutro delle mie contraddizioni. La precarietà è il mio equilibrio. L'amore non bastava. Dio non c'era. Decisi che la caccia poteva essere la strada. La caccia, pensavo. E sono passati 40 anni. 40 anni. Migliaia di avventure, inseguimenti. E sono ancora qui, che cerco di dare un senso ai tasselli della mia follia. Sì, ora non ho più paura di chiamarla follia. Io ci sto bene. Mi è servita per continuare ad illudermi. So da tempo che non è la caccia la risposta. È solo una maschera, lo sappiamo. Te l'ho detto tante volte. Ma allora, perché tutto questo affannarsi? Improvvisamente mi sento vecchio e prostrato, come se fossi Adamo barcollante sotto il cumulo dei secoli nel paradiso. Guardami, Starbuck, guardami, sono vecchio e non mi reggo più in piedi. Ma non per colpa di questa gamba mangiata dalla presunzione, no, no. La gamba non c'entra. Sono stanco. Capisco che forse quel senso che ho sempre cercato non esiste. E vorrei arrendermi. Ritornare nel magazzino di mio padre a contemplare il mistero del più piccolo nodo della più piccola lenza. Nella cucina di casa mia con la testa schiacciata contro la gonna della mia mamma a studiare il disegno preciso dei fiori gialli ricamati sul tessuto nero. Invidio, Starbuck, invidio la tua calma, il tuo tornare a casa alla sera, pure per tua moglie, le risate dei figli giorno dopo l'altro. Quello da cui sono scappato. Ma chi è questo innominabile soprannaturale tiranno che mi comanda contro tutti gli affetti e desideri di proseguire, di andare avanti? Ma se il gran sole non si muove da sé, altro non è che il fattorino del cielo. Se nemmeno una stella può ruotare se non grazie ad un potere invisibile, come può dunque battere questo mio piccolo cuore? Come può pensare questo mio piccolo cervello se non è Dio? Come può creare quel battito, quel pensiero, quella vita? Quel Dio che ho cercato e che non si è fatto vedere. Quel Dio che inseguo tra le increspature delle onde. Guarda nelle profondità e vedrai il massacro continuo. Il tonno più grande che mangia il pesce più piccolo. Lo squalo che mangia il tonno. Chi ha buttato in acqua le creature per farle combattere? Sbranarsi l'una contro l'altra continuamente? Dove vanno gli assassini? A chi spetta giudicare quando il giudice è davanti alla sbarra? Ma è un giorno tranquillo, è un cielo di un azzurro dolcissimo oggi, e dolce è il vento. Se questo fosse un mondo appena creato, creato per gli angeli, e questo fosse il mio primo mattino in cui loro si affacciano alla vita, su quel mondo non potrebbe albeggiare un giorno più bello. Ci sarebbe cibo per il pensiero, se avessi tempo per pensare. Ma io non voglio pensare. Io non penso più, non guardo più, non cerco più. Lascio a Dio il privilegio del pensiero, che se lo goda! Eccola! Eccola là! Guardate gli uccelli sopra di lei! Sono i gabbiani neri che fanno compagnia a Moby Dick! Seguiamo loro, fronte a fronte, per la terza volta! Poi il terzo giorno di questa caccia! Tirate sulle vele! Aspettate con le lance! Andiamo avanti con la nave! Voglio dare ancora un'occhiata da qui in alto a tutto il mare! C'è il tempo per farlo! Uno spettacolo vecchio, vecchio come il giorno della creazione, ma in qualche modo ancora tanto giovane. Non è cambiato niente da quando lo guardai quella prima mattina dalle dune di casa mia. Io sono il bambino che guardava quel mare eterno. Io sono qui per te. Ai remi dunque, ai remi. Calate le lance in mare. Sentite l'odore di terra che viene dall'acqua. Moby Dick è un'isola per noi, l'isola che stiamo cercando da sempre. Sarà acqua dolce, ci sarà il verde delle piante, il profumo dei frutti colorati. Andiamo sull'isola, inseguiamo l'isola. Remate forte, remate, Piantate i vostri chiodi nelle onde! Piantateli fino in fondo! Non abbiate paura, forza! Guardatela! Anzi no! Lasciate guardare a me! Voi remate! Altrimenti vi cattura con il suo sguardo! Sirena d'Ulisse! Misteriosa regina dell'inganno! Tenetele le spalle girate! Pensate solo ai remi! La caccia! La caccia qui ora torna ad essere la sola cosa importante, l'unico modo per mettere ordine. Non comando più io. Comandano gli occhi che cercano Moby Dick senza vederla più. È il naso che la sente per primo. Perfetto. È odore di terra questo. È la terra che vi ho promesso. Ma dov'è? Dannazione! Tirate su i remi. Non respirate. I polmoni si bloccano! La saliva si ghiaccia tra la lingua e il palato! Le ossa smettono di scricchiolare! Il legno delle lance non emette neppure un gemito! Guare di velluto! Gli uccelli sono scomparsi! L'odore non c'è più! Il cuore si ferma! Il tempo senza tempo! Il vuoto mi sporgo sull'abisso. Vedo il vuoto, la mia immagine che mi torna riflessa. Non mi riconosco. Mi copro gli occhi con la mano. Lei è una montagna di ghiaccio e vento che sbuca dal fondo. Non la vedo. Me lo dicono le orecchie, che si bucano al rumore sordo del tuono. Il temporale! Acqua dappertutto. Tolgo la mia mano dal viso. Vedo il suo sguardo, lei è qui! Lei salta verso il cielo, mondo capovolto. Ho in mano il rampone. Lo lancio! Ma non guardo nemmeno dove va. So già tutto! Ho visto tutto in fondo ai suoi occhi! Specchio della mia vita! Sento solo l'acqua, i muri d'acqua, mare e ancora mare, altro che isola! Poveri amici miei, dove vi ho portato, Solo io lo sapevo! Vi chiedo perdono! Ma ditemi grazie per la vita che vi ho regalato! Ditemi! Mille volte grazie per la festa che abbiamo strappato al pianto degli uomini senza follia. Balliamo. Balliamo su queste onde. Balliamo sui tetti di questi palazzi di sale e schiuma. Un ballo senza luci. Candele spente che colano cera sul pavimento. Un ballo con tutto il buio del mondo. Stelle cieche per questa festa inzuppata di passione. E su, ragazzi, basta con le vostre lagne. Basta piangere e urlare. Basta anche con le preghiere. L'unica voce che potete sentire è la mia. In mezzo a questo deserto di acqua, come potete anche solo pensare che un Dio qualsiasi si interessi a voi? Dio si diverte con le onde, gioca con i pesci e il suo piccolo acquario. Gioca con voi, con tutti noi, senza neppure vederci. Lasciate perdere Dio e anche il diavolo, loro non hanno tempo per voi. Fidatevi di me. Fidatevi. Ancora una volta. È una festa questa, vi dico. Ci saranno barili di rum, vassoi di ostriche, donne splendide che san dire solo sì. E sarà bellissimo danzare sopra questo mare. L'acqua mi ributta in gola le parole. Ma i polmoni non mi fanno più male. Il gigante della paura se n'è andato. Le corde della mia prigione si sono sciolte. Muovo le braccia, le gambe. Vedo le mie mani trasparenti. Acqua. Ancora acqua. Acqua che mi dondola. Acqua che mi culla. Apro piano le labbra. Provo a respirare. Riesco a respirare. Vedo tra la spuma bianca delle onde. Respiro. Ho le branchie. La bocca gigantesca spalancata a raccogliere i frutti che il mare porta nella mia pancia. Il dorso martoriato da una vita di battaglie. Gli occhi grandi, le pupille mobili a scrutare l'orizzonte, a cercare il mare più caldo. La pelle bianca, color della neve, la coda a fare il tempo lento, la pace dentro l'anima, il sonno sorridente che chiude una giornata felice. L'amore che aggiusta il cuore. Io come lei. Io sono lei. Con Carlo Emilio Lerici, che cura la messa in scena dello spettacolo Moby Dick di Massimo Vincenzi, tratto dal romanzo omonimo di Herman Melville, con Edoardo Siravo. Online per il Teatro Belli dal 1 al 7 marzo 2021. Ben trovato. Grazie, ben trovato anche a te e a tutti i radioascoltatori. Ci presenti questo lavoro? In realtà è una storia lontana, perché il testo fu scritto da Massimo Vincenzi nel 2005 e fu scritto appositamente per Edoardo Siravo, che doveva farlo a un festival a Palermo, al CalSART Festival, che era un festival che si occupava di versioni teatrali di grandi romanzi della storia, insomma. E quindi aveva preso questo percorso e ha scritto un testo che è stato fatto a Palermo nel 2005, in quell'edizione, poi fu fatto al Belli la primavera successiva. E poi non è mai più stato fatto, ed è un peccato, perché in questa situazione di lockdown, pensando a cosa proporre per proporre delle cose nuove, incontrandosi con Edoardo, con cui collaboriamo, abbiamo fatto tante cose assieme, abbiamo detto ma facciamo una cosa nuova, e lui ha detto ma è forse l'occasione di riprendere questo Moby Dick. è un testo bellissimo, io non me lo ricordavo, devo dire che forse è una delle cose più belle che ha scritto Massimo Vincenzi, ed è anche un'occasione questa per ricordarlo, a quasi un anno dalla scomparsa, perché Massimo se n'è andato il 26 di marzo dello scorso anno, e ci ha lasciato questo piccolo gioiello che io spero avrà seguito e avrà tanti ascoltatori, perché è veramente una storia umana. Ci si immerge dentro a questo capitano Acab, interpretato magnificamente da Edoardo Siravo, e diventiamo un po' tutti Acab e tutti con la nostra balena bianca da inseguire. Credo che sia venuto un bel lavoro, l'abbiamo rimesso in piedi, all'epoca non m'ero occupato io della regia, invece questa volta me ne sono occupato io, è venuta una cosa completamente nuova, una cosa moderna, una cosa che credo avrà un seguito, e quindi siamo molto molto contenti di questa operazione. Proprio in questo senso, come avete ripensato la messa in scena? Il problema dello streaming è sempre quello di questa eterna discussione tra i fautori e i contrari a tutti i costi. Secondo me è un linguaggio diverso quello che passa attraverso la televisione, lo smart TV o attraverso il computer, e quindi nel momento in cui si usano le telecamere bisogna avere l'accortezza di usarle in un modo un po' diverso e quindi pensare più la cosa per una fruizione televisiva. Quindi diciamo che si è lavorato molto sulla voce e sui suoni che accompagnano la voce di Edoardo, che è una voce magnifica, e sul volto, sui segni del viso, abbiamo lavorato molto su quello, e quindi credo che alla fine anche in streaming avrà un grande impatto. Si può fare il teatro in streaming, si può fare, e credo che continueremo a farlo, perché nonostante questo avviso di riapertura, che mi sembra un po' una presa in giro, ma tant'è, insomma, noi non riapriamo, quindi continuiamo ad andare avanti così. Cosa ti ha impressionato maggiormente riprendendolo in mano? Sinceramente non lo ricordavo il testo. In quel periodo con Massimo Vincenzi abbiamo fatto tantissimi progetti, perché quei due anni, 2005-2006, abbiamo messo qualcosa in scena e qualcosa in progetto. Abbiamo messo la versione di Barney, Gli occhi al cielo, Il sogno di Ipazia, Alan Turing e la mela avvelenata, questo Moby Dick, Il verde vivo. Sono stati due o tre anni di grandissima attività, per cui non lo ricordavo. Invece è una storia dove, forse anche a un anno di distanza dalla scomparsa di Massimo, ci ho trovato dentro tante cose di Massimo, proprio sue, della vita, delle difficoltà, dell'inseguire. Cioè, mi ha colpito molto intimamente ripensando alla perdita di un amico, ecco, questo soprattutto. Ma credo che ci sia dentro la vita di tutti noi, e quindi credo che ognuno di noi si può ritrovare dentro le parole del capitano Acab. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Come sempre attraverso il sito del Teatro Belli, www.teatrobelli.it, si può acquistare il biglietto al prezzo di 5 euro e poi lo spettacolo è visibile tutte le sere tra le 21 e le 24. Dopo aver fatto l'acquisto noi mandiamo il link al video con la password per assistere allo spettacolo. Moby Dick di Massimo Vincenzi, tratto dall'omonimo romanzo di Herman Melville con Edoardo Siravo, online per il Teatro Belli dal 1 al 7 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Emilio Lerici. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie. L'agenda della settimana teatrale. Con Laura Caruso, curatrice del progetto Spettatori Erranti Chiama Italia, dal 21 febbraio al 9 marzo 2021. Ben trovata. Ben trovata a te e a tutti gli ascoltatori, grazie. Ci racconti? Spettatori Erranti Chiama Italia è anche per noi l'approdo, insomma, nel digitale. Ci è voluto un po' di tempo, no? Perché gli spettatori potessero familiarizzare con l'idea di un teatro con gli strumenti del digitale, perché da una parte magari gli artisti sono stati molto capaci, molto reattivi di produrre anche delle, veramente velocemente, delle ricerche proprio adatte a questo tipo di comunicazione con il pubblico. Gli spettatori hanno avuto bisogno di tempo, c'era bisogno di adeguarsi a questo tempo così complicato, no? E quindi, insomma, passato ormai i mesi che sappiamo, abbiamo pensato che appunto c'era necessità di creare un modo perché gli spettatori potessero conoscere quella che è una proposta molto ampia, molto fluida, per certi casi un po' anche dispersiva sul web delle tante cose che ci sono, e quindi Spettatori Erranti, che è il progetto che esiste già da 11 anni, promosso dalla rete teatrale aretina, che permette a un gruppo di spettatori, normalmente aretini, di girare per i teatri della provincia di Arezzo, gestiti dalle compagnie della rete. In questo caso si parla invece in una dimensione diversa. Intanto la comunità che è collegata, si sta collegando, è composta da spettatori di tutta Italia, e questa è una roba che solo il digitale ci permette di fare. Quindi abbiamo nel gruppo spettatori dalla Sardegna, dall'Umbria, da Milano, da Roma, oltre naturalmente ai nostri aretini della provincia di Arezzo. E quindi questa è già un'occasione di incontro che noi speriamo anche possa essere un modo per darsi appuntamento quando riapriranno i teatri, nei festival estivi, quindi comunque creare connessioni tra il pubblico in tutta Italia. E quello che hanno fatto fino ad ora è stato intanto conoscere la proposta di NET, che è la rassegna digitale promossa dalla rete teatrale aretina, che è proprio in corso in queste settimane. Di questi spettacoli loro ne hanno scelti tre, dopo che appunto i direttori artistici hanno avuto modo di raccontare ognuno degli spettacoli. Inoltre gli spettatori hanno potuto proporre ciascuno una proposta che è in programmazione in queste settimane e che sentivano che potesse essere una bella cosa da condividere con altri spettatori. E quindi sono arrivate varie proposte che comunque segnalano già il fatto che molti di loro si sono messi proprio alla ricerca online di cosa c'è, cosa viene programmato. Alcuni sono spettacoli in streaming, altri sono invece proprio spettacoli interattivi. Quindi si sono cominciati un po' a orientare. Tra questi ne abbiamo scelto uno, che è Socrate il sopravvissuto, degli Anagor, e tutti quanti appunto lo guardiamo e ne discutiamo insieme. Quindi la cosa particolare è che un po' vogliamo spezzare quella dinamica che un po' il digitale crea del produttore-consumatore, da solo o da sola, a casa, che è un po' quello che sta un po' succedendo, visto che sono chiusi i luoghi di socialità, no? E della cultura socializzata. Quindi noi quello che vogliamo fare è quindi ricreare un foyer dopo spettacolo in cui gli spettatori possano parlarsi, dialogare, trasformare quello che hanno visto in un'esperienza di conoscenza tra sé, con l'opera, e poi anche insomma avere modo poi nel tempo un po' di rifletterci. Ci parli un po' di questi quattro lavori? Domenica scorsa abbiamo visto Il gatto con gli stivali, uno spettacolo molto carino promosso da Cantestrasse della residenza Campiciago, ed è uno spettacolo dedicato a tutto il pubblico, quindi a tutte le età, che usa molto il teatro di figura, un lavoro molto artigianale che tra l'altro tanti spettatori che lavorano nell'ambito dell'educazione hanno sentito fosse proprio adatto per suscitare magari laboratori nelle scuole, quindi tutti abbiamo un po' rilevato che oltre a piacere a noi è un lavoro che può piacere moltissimo alle classi intere. Tra l'altro mi piace segnalare che una delle nostre spettatrici si è collegata dalla casa famiglia dove lavora come educatrice e quindi ha potuto condividere la sua visione con i bambini della casa famiglia. Un aspetto di questo lavoro sul digitale che credo che possa aggiungere rispetto al lavoro sul pubblico che si può fare normalmente è che può raggiungere dei pubblici che normalmente non vanno a teatro, per qualche motivo magari fanno fatica ad andare a teatro. Penso anche a tante persone che magari hanno anche dei problemi, che ne so, fisici, no? Oppure persone che vivono lontano dai teatri. Spettatori Erranti Chiama Italia può essere un'occasione per scoprire alcuni linguaggi avvicinando le distanze, insomma. Poi vediamo Genoma Scenico, che è uno spettacolo di danza di Nicola Galli, promosso da Anghiari Dance Hub, ed è uno spettacolo molto interattivo perché il pubblico, sono 10 spettatori alla volta, il pubblico può dare proprio una serie di comandi, c'è cioè tutta una piattaforma ideata dal coreografo, dei comandi per cui il danzatore si muove secondo i comandi dati dagli spettatori. Ah, mi piace dire che tutti questi due spettacoli di cui ti ho parlato sono in contemporanea, cioè lo spettatore vede qualcosa che sta avvenendo in quel momento, cioè non è uno spettacolo registrato, proprio c'è questa dinamica di interazione, tanto è vero che domenica scorsa noi ci siamo trattenuti con l'attore in scena, insomma eravamo collegati su Zoom, però lui era lì in carne ed ossa, insomma, nello stesso momento. Questa cosa con Genoma Scenico avviene ed è quindi uno degli spettacoli, devo dire, che in questo momento forse sta sperimentando di più l'interazione. E poi l'ultimo di questi tre della rassegna NET è Don Chisciotta, con la sciota finale. Infatti lo vediamo l'8 marzo, è promosso, prodotto da Officina della Cultura, e noi lo vediamo nella stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. E anche qui è un lavoro su Don Chisciotte, però al femminile, ci sono due attrici, più musicisti, sono 14 in scena, ed è uno spettacolo anche qui molto interattivo, pensato per una funzione In digitale ora, con tutto un anche riprese da vicino, cioè proprio pensate per chi guarda attraverso il video, ma poi pensato anche per poi andare in scena quando, speriamo presto, si apriranno i teatri. Quindi potremo integrare la visione del digitale con l'esperienza dal vivo quando sarà possibile. E quindi ecco, questi sono più quel Socrate il sopravvissuto di cui ti ho detto, che invece è uno spettacolo degli Anagor, uno spettacolo insomma storico, tra l'altro inserito in una rassegna dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, che noi vediamo e poi ne discutiamo insieme. Ci lasci tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? reteteatralaretina.it è il sito dove trovate tutto, poi su Facebook, Spettatori Erranti, ma anche Rete Teatrale Aretina, che è sia dello spettatore, perché come sai, insomma, poi dall'esperienza degli Spettatori Erranti è nato un festival proprio dedicato agli spettatori, e quindi ecco, è veramente un modo che stiamo scoprendo, tra l'altro adatto a tutti, cioè un sacco di spettatrici che non pensavano che avrebbero mai potuto usare gli strumenti tecnologici così, invece l'hanno fatto facilmente. Perché appunto essere in gruppo aiuta anche a superare le piccole difficoltà, no, che si possono avere per approcciarsi alle cose. Quindi ecco, aspettiamo tutti coloro che vorranno unirsi al gruppo. Spettatori Erranti Chiama Italia, 4 spettacoli di teatro digitale scelti dagli spettatori dal 21 febbraio al 9 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice del progetto Laura Caruso. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te e a voi tutti, grazie. Con Marco Pasquinucci per presentare la prima edizione di Nuove Terre d'Inverno dal 25 febbraio ad aprile del 2021. Marco, ben trovato. Ciao, grazie a tutti, grazie a te per questo invito. Un nuovo progetto, ce ne parli? È un nuovo progetto che nasce in un momento così strano, difficile, insomma, di cui siamo molto contenti, anche per la genesi, nel senso che è una sorta di segno che la nostra attività si sviluppa sui territori, perché nasce questo Nuove Terre d'Inverno proprio come figlio dichiaratamente del progetto estivo Nuove Terre, che ormai è diventato un festival molto importante anche a livello nazionale, insomma, che coinvolge i territori liguri nel periodo luglio-agosto, e nel tempo, approfondendo il lavoro soprattutto con i territori, con gli assessori, con i comuni di riferimento, abbiamo sempre pensato di provare a fare qualcosa anche d'inverno, dove le attività culturali praticamente scompaiono, no? Essendo paesi che sono invasi d'estate dal turismo e dalle occasioni, e d'inverno in qualche modo le comunità di riferimento perdono identità. E proprio su questo, appunto, abbiamo costruito questo progetto che forse simbolicamente, se vuoi, si è sviluppato e debutta in questo anno così particolare. Noi chiaramente l'avevamo pensato dedicato alle comunità di riferimento e in presenza. Questo succedeva chiaramente prima della chiusura, della fine di novembre. E l'abbiamo riconvertito con due progetti online specifici proprio per quanto riguarda appunto sia la nostra attività che abbiamo sviluppato nell'online di Officine Fafagi in questo periodo di pandemia, sia cercando altri prodotti interessanti che appunto poi vi racconterò, e con un appuntamento a sorpresa. Raccontaci un po' come si articolerà da qui ad aprile. Debuttiamo proprio questa settimana, siamo proprio in prova, e dire in prova è strano perché insomma ognuno a casa propria, al teatro con microfoni vari eccetera. Inizieremo appunto giovedì 25 febbraio in replica fino al 28 con un nostro lavoro che si chiama Rebecca, è una riduzione in qualche modo drammaturgica di un libro che ha avuto un grande successo, ha vinto il premio Calvino del 2012 ed è La vita accanto di Maria Pia Della Diara. Racconta la storia di una donna brutta. Nasce questa edizione sul web perché il buio è un elemento molto importante appunto di questo lavoro e di questa storia. Il buio permette a Rebecca, che è proprio brutta, deforme, permette a Rebecca di raccontare la sua storia, che appunto è una storia che è in equilibrio fra il giallo, perché poi alla fine si capirà per quale motivo è così brutta, c'è un motivo, una storia familiare un po' contorta e anche un po' torbida, se volete, e la poesia. Poesia appunto legata proprio allo stereotipo della bruttezza. Nel buio Rebecca ha la possibilità di raccontarsi, e chi ascolta la storia di Rebecca nel buio ha la possibilità di essere protetto, di ascoltare, no? Perché la bruttezza in qualche modo, la visione di questa bruttezza avrebbe impedito al pubblico di ascoltare con chiarezza. Partendo da questa idea abbiamo cercato di riprodurre l'idea appunto di una stanza al buio ai nostri spettatori, E quindi chiediamo allo spettatore di partecipare, è uno spettacolo che si svolge su Zoom, a porte chiuse per un massimo di 25 persone, chiediamo agli spettatori appunto di staccarsi dallo schermo, perché non si vedrà niente, ma di collegarsi a Zoom con il cellulare e l'auricolare, e di andare in una stanza al buio, e dedicare appunto 40 minuti così di intimità a questo lavoro. Chiediamo anche agli spettatori di lasciare il microfono aperto. Non perché sia uno spettacolo partecipativo, anzi ci sono dei piccoli momenti di saluto e altro, ma con l'idea che i suoni provenienti dal microfono delle singole stanze degli spettatori che saranno collegati diventino un patrimonio comune, che diano un po' l'impressione di essere tutti in una stanza al buio, davvero. L'abbiamo già sperimentato ed è una sensazione particolare, strana, in cui la nostra idea è quella di provare a lavorare su una percezione di condivisione, cioè nelle nostre solitudini, nelle proprie stanze al buio, però questo collegamento audio dà l'impressione appunto di far parte di una comunità di spettatori che assiste alla storia di Rebecca, che racconta di per sé anche lei nel buio. E quindi questo sarà il debutto di questa nuova Terra d'Inverno. Debuttiamo proprio giovedì. Ci sono due appuntamenti, alle 21.30 e alle 22.30. La stanza di Rebecca si aprirà proprio per accogliere 25 spettatori, proprio da giovedì a domenica, quindi dal 25 al 28. Tutte le informazioni le potete chiaramente trovare appunto sul nostro sito, sulla pagina Facebook. Quindi questo è il primo appuntamento molto intenso, dedicato sia ai territori, perché la particolarità è che la diretta di questo lavoro avverrà in tre posti dei nostri territori liguri, appunto di Bonassola, Framura e Deiva Marina. La prima sera saremo in diretta appunto dall'oratorio di Framura, la seconda dall'oratorio di Bonassola e la terza dalla torre di Deiva Marina. Quindi in qualche modo ci sarà anche un legame un pochino più stretto con i territori, visto che appunto la dimensione online in qualche modo ci porta al di là appunto dell'appartenenza territoriale. Il 25 e il 26 marzo è un appuntamento dedicato ai più piccoli, ai ragazzi delle medie e degli elementari. È un lavoro di Cantestrasse Teatro, una residenza artistica toscana, che presenta un lavoro molto particolare che loro hanno fatto sul Mago di Oz. È un game in cui gli spettatori sono chiamati a scegliere lo sviluppo dello spettacolo attraverso appunto una serie di domande che vengono fatte direttamente agli spettatori. Si segue attraverso un collegamento con la piattaforma Sonar, che è una sorta di piattaforma multimediale creata appunto da Salali di Teatro, che è un'altra residenza artistica toscana. E questo appuntamento sarà dedicato al mattino alle scuole di tutto il territorio, che vedranno lo spettacolo direttamente appunto dalle loro classi utilizzando le LIM o nel caso appunto i videoproiettori, e appunto in serale invece sarà dedicato appunto a tutte le famiglie. I ragazzi appunto amano rivedere lo spettacolo proprio perché lo spettacolo cambia ogni volta. Quindi questo secondo appuntamento di Nuove Terre d'Inverno è proprio dedicato al pubblico delle famiglie. E poi la grande scommessa appunto di aprile, questo rischio, che è quello appunto di aspettare e vedere se realmente si riapriranno i teatri, ma soprattutto si potrà riprendere l'attività teatrale anche all'aperto, perché ci siamo voluti appunto lasciare aperta questa possibilità. Abbiamo delle idee in mente, ci piacerà organizzare appunto, se sarà possibile, nei singoli territori, quindi Bonassola, Framura e Deiva Marina, uno spettacolo in presenza, fuori, all'aperto, al pomeriggio, proprio perché ci piace l'idea che sarà possibile di ricostruire una partecipazione collettiva in presenza, però con calma, lucidità e sempre maggiore sicurezza, proprio pensando alla cura del pubblico. Quindi incrociando le dita speriamo di poterlo fare, altrimenti la sorpresa la sveleremo e faremo qualcosa naturalmente ancora online. Per cui ecco, questo è un po' il progetto, questo primo appuntamento appunto di Nuove Terre d'Inverno. Ci lasci tutti i riferimenti web? Il sito è officinepapage.it, la pagina Facebook è la pagina appunto di Nuove Terre, che è appunto la pagina del festival estivo, ma vale anche per il festival invernale, e poi abbiamo appunto anche direttamente la pagina di Officine Papage, dove trovate tutti i messaggi e dove ci sono appunto tutti i link e gli eventi vari. Adesso appunto è proprio aperta appunto anche la possibilità di prenotare per lo spettacolo Rebecca. Prima edizione di Nuove Terre d'Inverno dal 25 febbraio ad aprile del 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marco Pasquinucci di Officine Papage. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, davvero, e vi aspettiamo. Con Elena Arvigo, ideatrice e coordinatrice artistica del progetto Atlantide 2021. Elena, ben trovata. Grazie a voi di questo spazio, parlare e raccontare, insomma, anche in questo periodo qua in cui sembrerebbe esserci poco da dire, invece, insomma, qualche cosa c'è. Un'idea che è stata presentata alla stampa l'altro giorno, raccontaci un po'. Tutto partito da una mancanza, che non è stata soltanto quella del lavoro, quindi del reddito, ma proprio anche della comunità, perché per i lavoratori dello spettacolo è proprio mancata il luogo e poi anche gli altri, no? E noi facciamo una vita perennemente in relazione, anche in contraddizione, perché poi è un lavoro anche molto solitario in certi momenti, però sicuramente c'è solitudine nei viaggi, negli spostamenti, però poi è un lavoro fatto di relazione, non c'è niente da fare, e anche quando si parla di cultura, di quello si dovrebbe parlare, no? È la relazione con gli altri. Questo tipo di rapporto. E quindi Atlantide nasce come questo, cioè come, ma se io pensavo di fare qualche cosa, avevo sempre il non avere il luogo, cioè il teatro, anche il pensare, ma è una cosa che faccio da sola, che metto in un contenitore solitario, un social, come faccio? E da lì, insomma, piano piano ho avuto questo pensiero di Atlantide, l'ho condiviso come di un contenitore, un luogo dove incontrarsi, chiacchierare. E quindi poi sono nati i camerini di Atlantide, un luogo dove incontrarsi 2 o 3 volte a settimana, chiacchierare, confrontarsi, partire da dove si è, no? E poi ognuno, diciamo, ha presentato dei sogni, dei progetti che si vorrebbero fare, e piano piano si sta costruendo questo piccolo luogo di rifugio, ma anche di creazione, ma anche di confronto, come se le due cose comunque non potessero essere separate, no? In un momento in cui agli artisti in fondo nessuno chiede che cosa volete fare, no? Siamo molto silenziosi in questo, siamo stati resi molto silenziosi. Tutto qua. Quanti artisti e artiste mette insieme al momento? Circa 23, dico circa perché poi in realtà sono di più, perché ci sono le collaborazioni, nel senso che alcuni progetti sono fatti collaborando con altre persone, quindi diciamo che i referenti di ogni progetto sono 23, e poi però c'è anche tanta gente che gravita intorno ad Atlantide, no? Dipende un po' da cosa si intende, ecco. Dopo questa presentazione alla stampa ci saranno prossimamente momenti pubblici? Stiamo riflettendo su come procedere, se per contenuti, con avvicinamenti, podcast, ai testi, ai progetti, è tutto in work in progress e vedremo piano piano come farlo. Sì, sicuramente sono previsti, uno potrebbe essere già l'8 di marzo, andiamo avanti, insomma, però sicuro, però procediamo passo passo, in maniera organica e anche con la tensione, no? È scritto nel manifesto che c'è una tensione comunque. Cosa vuol dire? Cioè che non è nel prodotto finito, non è un contenitore di spettacoli, è intanto un contenitore di artisti e poi da qui si parte, però certo confronti pubblici sono previsti, credo uno sia l'8 di marzo, stiamo organizzando qualcosa per l'8 di marzo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? C'è la pagina di Facebook Atlantide 2.0 2.1 2021 coi punti, dove c'è il manifesto, eccetera, eccetera. Poi i vari articoli, è possibile vedere la presentazione che abbiamo fatto su Zoom in streaming. E poi c'è la pagina Instagram, che è sempre Atlantide 2021, Atlantide On Air. E poi c'è il canale YouTube, dove abbiamo caricato dei video di presentazione, adesso caricheremo questa presentazione streaming che c'è stata, insomma. Atlantide 2021, un saluto, sì, e un ringraziamento all'ideatrice e coordinatrice artistica Elena Arzillo. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, grazie mille. Con Stefano Giorgianni del Collective Ulianov per presentare il libro La cecchina dell'Armata Rossa di Ludmila Pavlicenka per Edizioni Odoia. Stefano, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie mille per la telefonata. Presentiamo questo lavoro, di cosa si tratta? Questo libro è l'autobiografia di una delle cecchine più letali dell'Armata Rossa, ovviamente stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, conosciuto ai più anche in Europa per il film tradotto da noi come Resistance, la battaglia di Sebastopoli. Che tipo di lavoro avete fatto sul testo? Intanto noi operiamo in collettivo per le nostre traduzioni, lavoriamo in due di solito. Per la prima fase, entrambi leggiamo il testo contemporaneamente, proponiamo la nostra traduzione individuale, ci confrontiamo e alla fine esce la prima bozza di traduzione. Una volta finita, tutti e due la rileggiamo e la passiamo in revisione a una terza persona. Siamo tutti traduttori, anche se singolarmente lavoriamo per altre cose, ma non ci firmiamo con il nome del collettivo quando il lavoro non viene fatto in collettivo. All'estero è già pubblicato chiaramente il libro in altre edizioni, immagino. Certamente sì, noi tra l'altro abbiamo avuto a disposizione sia la nostra edizione russa, che è quella originale, sia quella inglese, quella appunto intitolata Lady Death, che circola maggiormente insomma sul mercato, e poi ci sono altre traduzioni in finlandese, in spagnolo, in tedesco, insomma è stato un libro che ha avuto un bel po' di successo al mondo, credo soprattutto grazie al film di cui parlavamo prima, insomma. Com'è nata l'idea, il progetto da parte vostra? Io ho sempre avuto una passione per i cecchini dell'Unione Sovietica. Ancora ai tempi dell'università avevo incontrato la biografia di Vasilij Zaitsev, il cecchino di Stalingrado, che credo che sia il più famoso di tutti, insomma, a livello mondiale. Avevo cominciato allora anche a tradurre la biografia quando ero ancora all'università, i primi anni di università è stato un po' un'acrobazia linguistica perché imparando la lingua avevo cominciato anche a tradurre questo libro, poi con gli anni avevo lasciato perdere e poi mi sono imbattuto nella biografia di Pavlichenko sempre grazie ai miei studi, insomma, all'università. Fortuna ha voluto che il libro non sia stato preso da nessuna casa editrice e che Odoia coraggiosamente, perché devo dire coraggiosamente, ci ha permesso di tradurlo, perché questi libri di solito non sono facili da proporre alle case editrici, perché in pochi si prenderebbero intanto il rischio di pubblicare un libro dove in tutte le altre lingue praticamente c'è scritto La cecchina di Stalin come sottotitolo. Quindi già questo non è un punto a favore di solito. È in forma di diario? Non è prettamente in forma di diario, è proprio un'autobiografia scritta, però curata a posteriori dalla Begunova. Credo che tra l'altro la curatrice abbia messo un po' mano alla biografia, perché ci sono probabilmente dei punti, secondo me, ammorbiditi rispetto a quello che aveva scritto Pavlichenko. Questo l'ho intuito leggendo soprattutto ovviamente la versione originale russa, perché Pavlichenko aveva scritto all'inizio un opuscolo che gli era stato appunto commissionato, di cui si parla anche all'interno della biografia, e lì ovviamente veniva esaltata la figura di Stalin. Invece, insomma, a posteriori il lavoro della curatrice secondo me è stato anche di esaltare la figura della cecchina e magari attenuare la famosa idolatria che costellava quegli scritti, insomma, in quel periodo. Che tipo di vita ha avuto? Quali sono gli eventi salienti che emergono dalle sue pagine? Ma secondo me è stata una vita, se pensiamo alla vita media del sovietico di quegli anni, molto avventurosa dal punto di vista dei viaggi, perché oltre alla sua esperienza bellica, Pavlichenko racconta dei viaggi che ha potuto fare grazie a una delegazione organizzata durante la guerra per andare nei paesi alleati a cercare qualcuno che sostenesse appunto l'Unione Sovietica contro i nazisti, e lei faceva parte di questa delegazione di 3 studenti mandata negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada, e sappiamo che allora, insomma, specialmente durante la guerra poi è stata una cosa al di là del sorprendente, direi. Ovviamente quello che risalta e che forse ci fa riflettere di più nei tempi difficili che stiamo vivendo anche noi oggi, purtroppo a causa del coronavirus, è stato il cambiamento totale della vita da studentessa a soldato in pochissimo tempo. con l'invasione nazista. Oggi, tra virgolette, ci lamentiamo delle condizioni di vita difficili che ci ha imposto il virus e secondo me dovremmo imparare anche dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni ad affrontarlo con un po' più di spirito battagliero, ecco, secondo me. Questa è una delle lezioni, secondo me, che può dare questo libro. Perché pensiamo allo sconvolgimento delle vite dei nostri nonni o genitori durante la Seconda Guerra Mondiale, chi ha avuto anche parenti durante la Prima Guerra Mondiale. Secondo me è molto importante questo messaggio. Non so se tu concordi, ma io l'ho vissuto proprio traducendo il libro durante il lockdown. Quindi ho detto, pensa cosa si sono trovati di fronte loro e come dobbiamo reagire noi adesso. Ci sono aspetti della sua figura e anche della sua esperienza che ti hanno particolarmente impressionato? Ma soprattutto il comportamento che avevano dei suoi commilitoni maschi, ovviamente sto parlando, che non credevano di avere davanti un ufficiale, quando lei ovviamente è salita di grado, una donna ufficiale a comandarli. Molti all'inizio pensavano di avere davanti una semplice inserviente, insomma. Certo è che da un certo punto di vista l'esercito sovietico era abbastanza avanti rispetto agli eserciti europei per l'impiego delle donne al fronte, insomma, questo sì. Però ci sono alcuni episodi anche abbastanza ironici che fanno ridere, però in realtà fanno anche riflettere. Penso forse certe cose non sono ancora cambiate, secondo me, purtroppo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Trovate informazioni sia sul sito di Odoia che sulla pagina Facebook di Odoia. Noi come collettivo siamo su Twitter con il nome Collective Ulyanov. La cerchina dell'Armata Rossa di Ludmila Pavlichenka. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Giorgiani del Collective Ulyanov che lo ha tradotto per le edizioni Odoia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, buona serata. Con Maurizio Becker, vice direttore della rivista mensile Classic Rock, per presentare il volume da collezione che festeggia i primi 100 numeri. Maurizio, ben trovato. Buongiorno, ciao a te e a chi ci ascolta. Per chi non conoscesse la rivista, ce la descrivi? Ma è un mensile che racconta le storie della musica rock, soprattutto della sua epoca d'oro, diciamo, della sua epoca classica, quindi concentrata soprattutto su protagonisti della musica degli anni 60, 70, 80. Ovviamente ci occupiamo anche di quello che arriva oggi, che produce oggi la scena musicale, ma il focus è quello. Com'era nato il progetto? 8 anni fa, quando Luca Sprea, che è un editore consolidato nel settore dei periodici, e si rende conto che manca in Italia un periodico che approfondisca questo segmento della musica rock, insomma dopo la scomparsa di una serie di testate storiche, e decide di rilevare la licenza italiana per pubblicare la rivista inglese Classic Rock, che era ed è una delle più accreditate a livello internazionale. Parte, diciamo, con ottimi risultati subito, immediatamente diventa la rivista leader del mercato e dopo 22 numeri decide di cambiare squadra, cambiare staff redazionale e affida la direzione a Francesco Coniglio, che con il mio aiuto crea un nuovo staff di collaboratori e rende la rivista un po' più personalizzata, più italiana. All'inizio c'erano soprattutto traduzioni di pezzi di colleghi inglesi e con il tempo la quota, diciamo, di contributi italiani è progressivamente aumentata e oggi la rivista è prevalentemente fatta in Italia. Come si struttura un numero? Ma il numero è composto innanzitutto da interviste retrospettive e grandi storie che raccontano appunto di periodi, di generi oppure di album storici del rock, anche sfruttando quello che sono gli anniversari. Insomma, viviamo ormai in anni di continui anniversari, no? Cinquantennali e così via, per cui non è difficile trovare spunti interessanti per presentare o ripresentare queste storie e questi contenuti artistici ai nostri lettori. Ovviamente quello che distingue un po' l'approccio di Classic Rock rispetto a quello di altre riviste anche del passato è l'utilizzo di fonti dirette. Anche grazie al supporto dei colleghi inglesi noi abbiamo accesso a interviste di prima mano, per cui c'è la voce di chi c'era e che ha fatto quella musica, non solo un po' le fantasie e le rielaborazioni postume di persone che magari non hanno vissuto direttamente quella musica. Questo numero speciale come si caratterizza? Per questo numero ho usato un po' la formula classica dei 100 dischi imperdibili, no? Ovviamente ne abbiamo fatte tante in questi 100 mesi, no? Di liste, i 100 dischi migliori degli anni 80, i 100 dischi degli anni 60, i dischi dell'hard rock e così via. Questa volta abbiamo dato un po' più di libertà ai nostri collaboratori, quindi abbiamo raccontato 100 dischi della nostra vita, 100 dischi che per noi di Classic Rock sono stati importanti. Ovviamente ci sono molti titoli classici e storici, ma ci sono anche delle curiosità. Va detto che i collaboratori di Classic Rock sono veramente una squadra di straordinario livello, perché ci sono persone che vivono il rock e lo raccontano da molti anni e spesso lo vivono in prima persona. Ci sono musicisti, ci sono persone che hanno avuto esperienze importanti a livello internazionale, per cui è una rivista fatta da persone che stanno dentro questa musica. Oh, a questo punto una curiosità, parlavi del periodo d'oro del rock dai 60 agli 80, considerando poi che nei 90 ci sono stati fenomeni importanti, mi vengono in mente il trip hop o il grunge. Ecco, da allora in poi che cosa è successo? Come si è evoluto il rock? Ovviamente parliamo di epoca d'oro perché è chiaro che questo tipo di musica ha espresso il massimo a livello artistico in quel periodo. Poi è divenuto un genere un po' più marginale, la comunicazione si è evoluta, anche i gusti, no, del pubblico si sono evoluti, e tutto sommato va anche detto che la musica in quanto tale negli ultimi 20-25 anni ha un po' diminuito la sua forza evocativa, cioè non è la prima forma di comunicazione che i ragazzini e gli adolescenti scelgono, cioè oggi ci sono altre forme di intrattenimento, magari un po' più superficiali, che sono meno atte più intrattenimento. La musica ha perso un po' la sua centralità, e in quanto musica molto basata sulla verità espressiva, il rock ha perso in questo senso il suo appeal per molte nuove generazioni, anche se poi, no, c'è sempre un gioco di ritorni di fiamma, e quindi puntualmente arriva qualcuno che è in grado di riaccendere questa fiamma. Cioè io parlo a livello internazionale, negli ultimi anni ha fatto grande clamore, no? È successo di band come i Greta Van Fleet, che sono dei ragazzini che di fatto ripercorrono un pochino quello che era stato fatto dai Led Zeppelin. Però hanno uno successo incredibile, in qualche modo hanno riacceso i riflettori su una musica, no, chitarristica, fatta in un certo modo, che sembrava morta, defunta, seppellita, e quindi sembrava destinato solo ai nostalgici. In realtà ci sono tanti ragazzi che oggi stanno riscoprendo il piacere di entrare in una cantina e suonare. Ha detto che oggi ha molta meno importanza l'uscita del disco, il disco come prodotto, e quasi tutto il peso adesso è nel concerto, nell'esibizione dal vivo. Sì, questo è il dato più triste un po' di tutto, perché alla fine c'è tutto un mondo che è andato in crisi, no? Cioè la discografia comunque rappresentava qualcosa di molto importante. Oggi la discografia è in crisi, la musica viaggia in altri modi, e sicuramente il live ha ritrovato la sua importanza, che un po' nel tempo, no? Soprattutto negli anni 80 con la video music e tutte queste cose qui aveva perduto. È un fatto molto importante perché la musica va vissuta dal vivo. È pur vero che l'attualità ci dimostra che poi basta un piccolo inciampo per bloccare un meccanismo, cioè ora siamo bloccati da un anno con questa pandemia, il sistema della musica è in ginocchio, perché tutti quelli che vivono di musica, che non solo sono gli artisti, ma c'è tutto l'indotto, no, che consente alla musica live di funzionare, sono senza fonti di guadagno, e quindi questo è un grossissimo problema. In questo senso la musica registrata ha ritrovato una parte della sua forza, perché non potendo andare ad ascoltare musica dal vivo, chi non può vivere senza musica, gioco forza, ha dovuto tornare ad ascoltare musica registrata. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? C'è Stone Music, che è il portale di Spray Editore dedicato alla musica, e lì c'è la pagina di Classic Rock. Poi sai, noi siamo un po' vintage, cioè il web, la realtà virtuale sono cose che dobbiamo fare perché si fanno, no? Perché la comunicazione viaggia anche soprattutto attraverso la rete, però come vedi magari parlare 5 minuti in radio per noi è più gratificante che pubblicare qualcosa in rete, devo dire la verità. Il volume da collezione per festeggiare i primi 100 numeri di Classic Rock, un saluto e un ringraziamento al vice direttore Maurizio Becker, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao a tutti, rock on! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.